Back jump. Street art and graffiti. Grazie a X in the Mix con Get a Little Fizzy, che ci fa da sigla per il nostro nuovo programma, una rubrica flash velocissima che si chiama Back Jump, Street Art e Graffiti. Parleremo proprio di arte. Iniziamo con me, io sono Flavia, iniziamo con la street art. Prossima settimana invece ci sarà Greg di Bugzin che vi parlerà invece di graffiti. E lo facciamo oggi, la prima puntata, con il collettivo FX, che da qualche mese è in giro per l'Italia per sensibilizzare, o meglio chiedere, ordinare proprio come un imperativo alle persone, di a noi tutti, di abbandonare le auto e muoverci un po' in bicicletta. Come, quando, perché, ce lo spiega proprio Simone di Collettivo FX, che abbiamo sentito al telefono. Visto che Collettivo FX adesso è in giro, anzi è da un po' che sta girando l'Italia con un nuovo progetto che si chiama Usa la Bici, ce ne puoi parlare un pochino? Allora, intanto l'hai detto in tono troppo gentile perché non deve essere tipo Usa la Bici, no, Usa la Bici, cazzo, poi c'è anche in fondo, in base a dove vai, anche l'insulto più efficace, no, tipo, non so, in Piemonte, in India, dove sei, perché è un imperativo, ah, Usa la Bici, è un imperativo perché viene visto come un argomento bici, se uno bravo, se uno buono, no, cioè o si usa la bici o si muore, nel senso che siamo messi talmente male, non ce ne rendiamo conto, a livello banalmente di inquinamento, ma come dire, non solo di inquinamento, ma anche di utilizzo degli spazi urbani, ma anche incidenti stradali, cioè ci sono 3.500 morti l'anno per incidenti stradali, sono delle cifre assurde di persone che vengono ferite, muoiono un sacco di bambini anche in Italia, per incidenti stradali, per l'utilizzo di movimento, senza fare un discorso magari più terra a terra, nel discorso economico ci sono delle spese per la gestione delle automobili, tutto il danno dovuto all'utilizzo dell'automobile di 45 miliardi di euro, cioè robe gigantesche, per questa gestione che è un po' così, no? Allora, a un certo punto, visto che in realtà non è che si parla di fare la bella gita o di andare a vedere il paesaggio figo, ma si parla di un problema gigantesco, serio, il problema deve essere quello, cioè o si usa la bici o si usa la bici, cioè è imperativo. Quindi è un progetto volto proprio a sensibilizzare. Sì, cioè sensibilizzare e cercare di cambiare anche le cose, proprio non solo, insomma, sensibilizzare e agire. No, il nostro potere praticamente è inesistente, però come dire, abbiamo fatto la nostra parte, non semplicemente andando in bici, ma anche, come dire, sollevando la questione in maniera abbastanza pesante. Poi ovvio, siamo due che tiriamo in bici, più il Fiero che fa un pezzo con noi, altre persone che salvano ciclisti di varie taglie, le fiabe di varie taglie, riusciamo a fare un pochettino, però come dire, dato che la questione è gigantesca ed è gravissima, volevamo fare un po' la nostra parte, tutto lì, insomma. Certo, ma com'è che è partita questa idea, vi è venuta in mente? Allora, è un'idea in realtà vecchissima, cioè un'idea vecchissima, l'idea di utilizzare la bici, questo tipo di squadra già l'ha fatta nel 2013, quindi 6 anni fa, con un progetto che si chiamava Moma Tour, che andava da Modena a Matera. Poi nel 2015 ne abbiamo fatto uno più piccolo che si chiamava Torna Subito, che era sulla Sicilia, sulle realtà che stavano lavorando in Sicilia o che erano tornate in Sicilia, era molto semplice quel progetto lì. E dopo, vedendo che facendo quel tipo di progetto in bicicletta, in realtà il problema maggiore era la bicicletta, hanno fatto un altro progetto che è questo qui, con tematica bicicletta, quindi andando in bici e parlando di bici. Quindi è nato un po' da quello lì, ma nasce vedendo tutti i giorni come questo argomento si è messo male. Il concetto di oggi è dedicato proprio all'utilizzo della bicicletta, mentre quelli che avevate fatto prima non erano improntati su appunto questo sensibilizzare sull'utilizzo della bici, erano più tematiche che erano, chiamiamole con un brutto termine, erano tematiche etiche, un termine ormai consumatissimo, però venivano affrontate in maniera etica, cioè andando in bici. Se uno voleva affrontare un argomento, per esempio l'articolo 9 della Costituzione, l'articolo legato allo sviluppo della cultura e la tutela del paesaggio, ci vai con un diesel, è assurdo se tu arrivi a tutelare il paesaggio sgasando con un diesel, cioè arrivavi in bici ed era non soltanto quello che realizzavi, ma anche il modo con cui lo andavi a realizzare che era coerente, ecco. Qua siamo proprio arrivati dentro l'argomento, ecco. E a proposito, oltre l'argomento siete andati anche dentro diverse città, quali sono le tappe che avete toccato finora? Abbiamo cercato di mescolare un po' piccole realtà con realtà un po' più grandi. Siamo partiti da Torino, siamo arrivati, abbiamo fatto tappa a un paesino che sulla foce del Ticino paesino incrocia Ticino e Po, che si chiama Travacossico Mario, Cremona, Boretto, che è un altro paesino un piccolo in provincia di Reggio, sempre sul Po, Bologna, in realtà interessantissimo Bologna a livello di movimento di legato alla bici, Castiglione dei Peboli, che è tra Bologna e Prato, poi abbiamo fatto Prato a Livorno. Adesso andiamo a fare una terza tappa appena dopo Pasqua, che va da Livorno, una terza parte che da Livorno a Roma. E poi il tour si concluderà a Roma o lo porterete da Torino allora, a Roma, era vero? Da Torino a Roma, però in realtà ha creato un minimo di fermento, quindi ci sono un po' di richieste e cerchiamo di, usando questo modo di fare delle parti, di rendere in parti da 4-5 giorni, così di andare oltre e portarla avanti per tutto il 2019. Cosa succede in queste tappe? Voi andate in giro in bici e dipingete, giusto? Allora, c'è tutta una fase progettuale. Uh-huh. Tutta la parte progettuale consiste nel, grazie anche a un ex parlamentare che si chiamava Paolo Gandolfi, uh-huh, che era quello che stava riscrivendo il codice della strada, vedendolo dalla bici e dalle auto, cioè adesso il codice della strada è scritto vedendolo dalle auto, invece lui lo stava riscrivendo dal punto di vista del pedone e del ciclista. Poi dopo ovviamente non ce l'ha fatta perché la cosa è troppo rivoluzionaria. Comunque grazie a lui abbiamo ricevuto una rete di contatti legate ad associazioni di bici, di progetti sulle bici come l'Avento eccetera eccetera, li abbiamo contattati e abbiamo chiesto loro di collaborare a livello ideativo. Se noi facciamo tappa lì, dipingiamo, però voi spiegate come, per dire, com'è la situazione a Torino, com'è la situazione a Cremona, perché ho in realtà, pur essendo un problema generale, comunque la declinate in maniera diversa, no? Cioè, per esempio Firenze, la zona Prato, Firenze è la zona più motorizzata d'Italia, no? Uno penserebbe magari a Napoli o Milano o Palermo, in realtà la zona più motorizzata d'Italia è Firenze, quindi si è lavorato su quel discorso lì. E questo a chi lo dite? Nel senso, lo spiegano a voi o fate degli incontri con delle persone, non so? Sì, lì vengono ci si sente per telefono via mail con le varie FIAB o associazioni, uh-huh, o enti nel territorio, per declinare il discorso sul luogo proprio specifico. Sì, ad esempio Cremona ha problemi con Trenord, perché Trenord ha cavato i treni, cavando i treni in realtà cavi l'interscambio, quindi non riesci più a muoverti in bici, arrivare al treno, caricare la bici sul treno e andare, cioè, per esempio a Milano con la bicicletta, e tutto cambia, no? Sì. Quello è un argomento grossissimo. C'è stata tutta questa fase progettuale dove abbiamo cercato di declinare l'argomento in base alle esigenze del territorio. Dopo siamo partiti in bici, spesso accompagnati da persone del territorio, abbiamo un po' documentato per quanto riuscivamo la situazione, perché muoversi in bici poi anche quello è come dire, parte del progetto, quello che succede, come sono le ciclabili, come sono le città, quando si trova in statale, quando non ci capisci niente, oppure quando ci capisci, perché sono in situazioni virtuose, e quando arrivavamo nei posti dipingevamo in base a quello che avevamo un po' ragionato. A proposito di muoversi in bici, quali sono le bellezze e anche le difficoltà che avete trovato negli itinerari finora svolti, insomma? Quelle bellezze tantissime, la grossa scoperta è il Po, visto che il Po è una via enorme. La grossa scoperta del Po è che noi immaginario collettivo veniamo come una cosa che vada da est, da est a ovest o da ovest a est. In realtà una parte importante del Po va da nord a sud, che è la parte che va da Pavia verso Reggio Emilia. Questa è una scoperta grossissima, perché nel muoversi in bici nei medi e lunghi tratti, l'Italia è un grosso buco, che è un grosso vuoto, che è la pianura padana. Cioè, nel senso, chi si muove in bici verso sud, ma da chi lo fa in giornata, in 2 giorni o in 15 giorni, o chi viene dal nord Europa per andare al sud, oppure chi semplicemente si vuole muovere dal nord Italia e arrivare al centro Italia, c'è questo vuoto che è la pianura padana. Il ciclista normale che deve farsi un piccolo viaggio non si mette sulla via Emilia, e quindi questo porta a, come dire, a tagliare fuori tutta una parte di viaggiatori o di gente che si muove nel breve periodo. Tracciando la mappa abbiamo visto che il Po invece, oltre che essere molto più bello di quanto immaginiamo, è anche un tratto molto utile per portare tutti i cicloturisti che vengono dalla zona, diciamo, Milano, Torino, che è una zona ampissima, quindi tutto quello che c'è là dietro, verso Bologna, per poi andare verso Firenze eccetera eccetera. Questa è stata la scoperta più interessante. E questi sono tutti itinerari che avete fatto, sono attrezzati per le bici o come li avete trovati esattamente? No. Non c'è una comunicazione, cioè il problema più grosso in realtà è che l'Italia è piena di paesaggi stupendi, di strade secondarie e anche di ciclabili più o meno fatte male o bene, però non c'è, cioè se tu viaggi in bici non capisci dove sei, questo è il problema maggiore. Quindi l'attrezzatura più o meno uno ci può saltare fuori, nel senso che comunque magari se ti fai un pezzettino di strada più trafficato, ti fai una ciclabile anche un po', però alla fine ci salti fuori. Il problema è che tu non ci capisci. Per esempio un automobilista che arriva a Pavia sei di Bologna, mette Google Maps e ci salta fuori. Il ciclista non ha questa possibilità perché non ci sono mappe o non c'è un navigatore, se non scaricando delle app particolari di cui noi non siamo capaci, che ti dà l'indicazione giusta. Poi dopo noi usiamo i vecchi metodi, ci fermiamo a dei veci e chiediamo per andare là e funziona. Però sai, questo qua quando ti infili in una città chiede un po' quello il problema giusto. Non ci sono i tracciati comodi e grossi per poter muoverti in bici. Questo percorso, insomma, questo viaggio ne avevate già parlato, o comunque avevate già illustrato, forse meglio dire, in Radical Chic 2, giusto? Radical Chic è diciamo una specie di fanzine, rivista messa tra virgolette, che nasce in realtà da quest'ultimo periodo dove noi giochiamo sul fatto che finalmente possiamo essere considerati Radical Chic perché siamo fondamentalmente dei morti di fame, non abbiamo soldi, e negli ultimi mesi basta dire una cosa che abbia un minimo di attenzione o di chi sia Radical Chic, no? Mentre un annetto fa per essere Radical Chic doveva avere un conto in banca, e quindi insomma questa cosa di, chiamiamola, di basta dire una cosa che abbia senso, si può essere Radical Chic, per noi è una grossa conquista, nel senso che finalmente, nonostante il nostro misero conto in banca, possiamo essere considerati Radical Chic. Quindi giochiamo su questa cosa, no, anziché prenderla come un'offesa la prendiamo come un complimento. E questa rivista, fanzine, sono in realtà delle bozze, degli appunti su argomenti d'attualità. Il primo era in generale, no, su vari argomenti politici e non politici. Questo qua, dal momento in cui in questo periodo stiamo facendo il progetto sulla bici, sono una serie di appunti sulla bici, che poi questi appunti, alcuni sono diventati murales, altri lo diventeranno, altri rimarranno semplice appunti, e si possono trovare scrivendoci, cioè si può trovare, è gratuita in formato PDF, e basta scriverci sui social oppure a collettivafx@yahoo.it e noi mandiamo il PDF senza problemi.